Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Incredibile, anche Rossi è per terra. Alla 10 mi pare. No! Eh sì. Incredibile, anche Valentino Rossi nella ghiaia. I tre migliori protagonisti della prima metà di gara, tutti e tre per terra. Era molto facile sbagliare, già da ieri lo avevamo visto. Non so se quella parte di pista era più scivolosa, ecco. Però sai, queste cose un pilota le deve sapere e semplicemente ho spinto troppo e sono caduto. Silva spiazza Romero, ancora una volta i rigori, bravo l'eroe, e il Cile porta a casa la Coppa America back to back, come dicono da queste parti, sempre ai rigori, sempre in paradiso, è sempre il Cile che vince, e ancora una volta per l'Argentina sono solo lacrime calcistiche. Incredibile finale, incredibile emozioni. Che salta, si terminò per la selezione, già come dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está. Sovvertire il pronostico in una lotta impari. Noi vogliamo fare questo, anche perché io non voglio tornare a casa. I ragazzi non vogliono tornare a casa, che sia chiara sta cosa. Non siamo la vittima sacrificale domani della Spagna. La Spagna dovrà dimostrarlo sul campo, di meritarlo. Noi saremo i primi a congratularci con loro se dimostreranno di essere migliori e più forti. Ecco tutti gli argomenti di cui parleremo in una giornata ad alta intensità, ad alto tasso di adrenalina. In questa copertina Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione, vi rivolgo subito due inviti. Il primo, chiamateci 800240024 per raccontare a me e a Pardo, che è già in linea, che cosa sentite nello stomaco per Italia-Spagna delle 18. Secondo invito, alle 18 appunto, 17.59 per la precisione, tutti convocati speciale per Italia-Spagna. Dalle 18 alle 21 saremo insieme, vi racconteremo la partita, un sacco di ospiti, un sacco di commenti e anche le vostre voci, microfoni sempre aperti. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Sto per entrare, sono in garage, tra 5 minuti sto su. Come va? Che ne so, Cosa senti nello stomaco per... Prima c'era l'anguore, poi adesso l'ho risolto questo problema. No, a parte tutto, sento preoccupazione, ovviamente, l'avversario non è semplice, un pochino di senso dell'impresa lo sento, ma quasi paura a confessarlo, quindi sì. È un pensiero al momento ancora lontano, che quasi vorrei reprimere per non illudermi. Intanto Pierluigi, poi ne parliamo con calma appena sali, nella notte ennesimo dramma sportivo per l'Argentina, che è arrivata in carrozza in questa finale. Vedi, non sempre i favoriti poi la spuntano. Pronosticatissima Argentina, dei fenomeni, delle superstar, di Messi e di Higuain. Dall'altra parte il Cile, un po' come noi, brutto, sporco e cattivo, con Vidal che è il suo simbolo. 0-0, rigori, di nuovo Argentina sconfitta 4-2, con Messi che spara altissimo il suo calcio di rigore e alla fine annuncia: basta, non ce la faccio più a vestire questa maglia. Tre sconfitte In tre finali consecutive, Coppa America due volte e mondiali, mi dimetto dalla nazionale argentina. Sì, beh, insomma, è un giorno non banale, è il giorno dei detrattori di Messi, è il giorno in cui i detrattori di Messi possono dire: ecco, non solo lui non è Maradona, tanto per essere chiari, ma ha anche la debolezza di chi di fronte a una delusione non ha la forza di cominciare o di cominciare. Sì, sicuramente per me. Senti, faccio fatica a sentirti, quindi sali con calma, ti aspetto qui mentre fai le rampe di scale che ti dividono da questo studio. E insomma, ieri pomeriggio abbiamo avuto ospite un collega ed amico argentino, Daniel Martinez, che prima di questa partita spendeva fiducia sull'Argentina stessa e su Messi. Sentiamo che cosa ha detto. Credo sarà molto interessante rimanere svegli fino alle 4 del mattino, 3 e mezza, speriamo che non ci sia il prolungamento e pertanto nel tempo dei 90 minuti Argentina riesca a imporsi. Sì, come no, infatti io sono rimasto sveglio, l'Argentina non è riuscita ad imporsi e Messi ha sbagliato il rigore decisivo, poi ha annunciato addio all'albiceleste. Coperto di critiche dai tifosi argentini, naturalmente Maradona non ci avrebbe mai abbandonato, adesso vediamo se ci ripenserà. Olé, popolare quotidiano argentino, a tutta pagina, Lio ripensaci, vedremo cosa succede. Ma Daniel Martinez aveva detto, lui meglio di Maradona, non scherziamo. Quello che ti ricordi te è che tu eri più giovane, avevi più capelli, questo sì, sicuro. Questo sicuro, ma me la ricordo eri bene. Eri meglio te. Non era meglio l'Argentina, non era meglio quella nazionale che doveva infrontare. Invece quello che sta facendo questo ragazzo qua è meglio, perché l'uomo, ragazzi, tende a migliorarsi. L'umanità tende a migliorarsi. E Messi è migliore di Maradona, come Maradona era migliore di Pelé. Vabbè, non mi sembra, caro Daniel Martinez, ti risentiremo nei prossimi giorni per capire se hai cambiato idea. Ci fermiamo per il traffico e poi andiamo dritti sulla vigilia di Italia-Spagna. Poi vi ricordo, ovviamente, affronteremo il fronte italiano ora con Dario Ricci, un ospite che vedo già, un nostro amico che vedo già in linea. Poi proveremo a capire qual è l'umore della Spagna. Poi dopo GR torneremo sull'argomento motomondiale e torneremo sull'argomento Coppa America. 800 24 00 24, le vostre telefonate, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. La Spagna si batte facendo qualcosa di straordinario, perché se rimaniamo nell'ordinario questo non accadrà, quindi se siamo la regione è difficile battere la Spagna. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, qualcosa di bello, confido in questi ragazzi perché mi hanno dimostrato che lo possono fare. In qualche gara siamo riusciti a farci valere, siamo riusciti a creare qualche grattacapo alla squadra più forte del mondo, e probabilmente l'unica squadra che l'ha sempre fatta soffrire è stata l'Italia. Serve un'Italia straordinaria, dice Conte, e ha ragione, e Buffon aggiunge i suoi pensieri, ma il senso è quello. Serve la migliore Italia degli ultimi 4 anni, da quella notte di Varsavia in cui in semifinale battemmo la Germania 2-0. Ormai è passato un sacco di tempo, è passato un mondiale disgraziato e adesso eccoci di nuovo qui. Dario Ricci, buongiorno, nostro inviato. Buongiorno Carlo, buongiorno da Saint-Denis, siamo già qui nella pancia dello stadio con un ospite, Alessandro Alciato di Sky, molto noto, voce amica, lo rubiamo all'infinità di dirette che ti aspettano oggi sui canali Sky. Beh, Alessandro, è vero, qua l'Italia ordinaria, l'Italia banale, l'Italia scontata non può bastare. Questo Conte sciamano, perché adesso è molto di più di un commissario tecnico, anche se ormai sulla porta, che effetto ti fa? Mi fa l'effetto di sempre, nel senso che è esattamente quello che è sempre stato e continua ad essere il motivatore, quello che lancia gli slogan. Io, se ti devo dire la verità, quando abbiamo pescato la Spagna ero decisamente pessimista. Poi negli ultimi giorni ho sentito Chiellini che ha detto, vabbè, però sai cosa c'è, noi non abbiamo paura. Barzagli che ha detto, siamo brutti e sporchi ma lotteremo. Conte che ieri si presenta in conferenza stampa e dice, cari ragazzi, qui chi pensa che noi possiamo essere la vittima sacrificale sbaglia. Stamattina mi sono svegliato molto ottimista. Su di noi funziona, sono andato oltre la ragione, perché è vero, la ragione mi dice, vabbè, prenota il viaggio per domani. La ragione è quella che porta Morata a mandare un sms al giorno a Zaza dicendogli prenota le vacanze da martedì. Però poi, se andiamo oltre la ragione, ho visto un'Italia motivata non ai massimi livelli, ancora di più. Sì, a pallettoni, diciamo così. Andiamo sui temi tattici, perché sembra scontata Florenzi al posto di Candreva nella posizione più logica. C'è di là ancora un ballottaggio, perché fino a ieri Darmian sembrava favorito, poi la rimonta di De Sciglio, E poi, cioè, ci può essere ancora qualche altra cosa in più? Guarda, la cosa che noto rispetto alle altre partite è che c'è una pretattica sfrenata questa volta. Le altre volte, no, alla vigilia eravamo sostanzialmente certi della formazione, sarebbe scesa in campo il giorno dopo. Oggi c'è quel piccolo dubbio fra Darmian e De Sciglio, anche a me risulta De Sciglio in netto vantaggio. Detto questo, c'è troppo silenzio intorno a queste scelte, non vorrei che alla fine ci potesse essere una sorpresa. Obiettivamente non so quale potrebbe essere, perché ad esempio qualcuno pensa Insigne, ma Insigne è titolare in questa nazionale, non gioca, e Conte gliel'ha detto molto chiaramente. Alla fine il dubbio, dai, sarà quello, alla fine magari gioca De Sciglio, però questo silenzio mi colpisce molto in queste ultime ore. C'è anche Dario, intanto è arrivato qui per Luigi Pardo. Eccoci. Che... Ah, eccoci. Brutta notizia. Mamma mia, il cielo, come va? Bene. Fino a un secondo fa benissimo. Manca solo il cogomero, eh. Senti, manca ma i colleghi cogomero spagnoli danno il messaggio, prenota il viaggio domani? No, c'è Morata che sta bombardando Zato di SMS. C'è infatti... Corcione che ti ha chiamato in un caso. No, salutiamo Massimo Corcione, direttore. È chiaro, il discorso che fa Alessandro ha una pienissima logica, la ragione ci porta a pensare male. La faccia di Conte, le parole di Conte, la mentalità di Conte e alcune certezze tecniche che abbiamo, perché poi insomma non è che siamo più deboli della Spagna, ma abbiamo le nostre certezze, abbiamo i nostri talenti, non è che siamo il nulla, e queste ci portano quantomeno a sperare. Io credo sinceramente che sia 65-35, mi sono attestato su questa percentuale. Siamo in un'epoca bassa, di referendum bassa per l'Italia. Beh, insomma, però non neanche bassa, ma non bassissima. Cioè, io credo che la Spagna sia favorita, però insomma 35% può succedere, è più di un terzo delle possibilità. È come se su 6 numeri di un dado ce n'hai 2 qualcosa, quindi tutto sommato secondo me è possibile, ci vuole una partita perfetta. Sicuramente la scelta che Conte ha fatto fino a questo momento, che sembra una scelta chiara di una formazione più di lotta che di governo, è chiaro che da un lato ti dà la possibilità di fare i piccoli Marines che aspettano e che ripartono, poi potrebbe mancare un po' di qualità quando gli devi far male. Però difendere alti, io credo, disegno tattico della partita, sicuro, ragazzi, difendere alti e lavorare sulle linee di passaggio degli spagnoli, e poi Giaccherini ed Eder con la loro velocità possono inserirsi e far male alla Spagna. Credo che almeno una parte del disegno possa essere questa, no Dario e Alessandro? Beh, direi di sì, senza dimenticare che pure Florenzi potrebbe essere un guastatore dietro le linee spagnole. A proposito di Spagna, Alessandro, ma questa idea del falso 9 che sta prendendo anche un po' piedi, siccome visto tra le tante sfighe c'è pure il fatto che Del Bosque non è proprio l'ultimo allenatore, non è magari un Wilmots che pure è preparatissimo ma che poi si fa uccellare alla prima partita. C'era nell'aria anche questa idea di un falso 9, un Fabregas rispolverato in quel ruolo per fare, come si dice, densità a centrocampo e crearci ulteriori problemi. La ritieni possibile? La ritengo possibile, ma qui alzo davvero le mani perché ho avuto nette difficoltà questa volta a mettere insieme gli 11 dell'Italia. Ho lavorato decisamente su quello. Tutto è possibile, anche perché poi è chiara anche la dichiarazione di Del Bosque. Lui a fine europeo lascerà la nazionale, ha detto ieri non voglio che questa sia la mia ultima partita. Sicuramente qualcosa si inventeranno oggi tutti e due, magari non a livello di uomini ma a livello tattico sì, ma cioè, lo ripeto, la pretattica che c'è stata in questa partita da parte di tutti e due è stata una cosa da impazzire, almeno per noi giornalisti, perché era difficile proprio entrare nella mente dei due allenatori. Però vorrei segnalare che come era successo, ormai intanto ci aggrappiamo anche i segni premonitori, certo. Ve la ricordate la famosa coccinella che Barzagli ha raccolto prima di Italia-Svezia? Sì. Sapete cosa è successo ieri durante la passeggiata qui a Saint-Denis? No, non so come se è morta, no, credo che goda di ottima salute, ne ha trovata un'altra Barzagli, o se la porta da casa ed è una possibilità, sì, esatto. O se no c'è una fortuna infinita, sì, e allora anche questo può servire. Che la metta al servizio della casa. La coccinella contro la Svezia era stata, no? La coccinella contro la Svezia, gol di Eder 1-0. Anche se Capuano e anche Cruciani ti direbbero che quella coccinella ha portato sfiga, perché siamo arrivati primi nel girone, altrimenti adesso stavamo già ai quarti a pensare a un'Italia-Galles. Avevo visto il Belgio che prendeva pallonate in Ungheria. Stavamo già pensando a Italia-Galles, a come fermare Ramsey e Bale. Vabbè, ma queste sono altre storie. Comunque, lunga vita la coccinella, ma l'altra come sta? Sta bene? No, ma la coccinella d'Italia-Svezia. Dov'è? L'inchiesta del momento, le grandi inchieste di tutti i convocati. Altro, eh? No, no, noi ci attacchiamo a tutto, anche al mezzo pen, i penny trovato per strada, tutto fa fortuna, tutto fa... Non faccio fa nomi, non faccio nomi, ma no. C'è chi oggi, giornalisti italiani, qualcuno si è messo le stesse mutande oltre lo stesso vestito che aveva il giorno d'Italia Belgio, ovviamente lavate, non fatemi andare oltre perché non voglio fare nomi. Però vedo poche mani. Non vuole, se sono lavate siamo nell'ambito dell'accettabile normale scaramanzia. Il livello di follia e di scaramanzia che accompagna anche il gruppo dei giornalisti. Però poche maglie decisamente azzurre tra i giornalisti, perché si può mantenere un certo aplomb, anche se vedo che la tua cravatta azzurra lo è. Sì, quindi, insomma, cravatta azzurra, sì. Qualcosa bisogna fare. Io pure la magliettina non dell'Italia, ma azzurra ce l'ho, dai. L'ultima cosa, Dario e Alessandro Alciato, come ingresso tattico, come giocatore tattico in grado di spezzare gli equilibri, più El Shaarawy o più Insigne? A partite in corso, naturalmente. Prego. Per me è totalmente Insigne. Avete visto contro l'Irlanda, per me insegna. Cioè, lui ha proprio questo ruolo, quello di chi deve entrare e spaccare la partita se le cose non dovessero andare esattamente bene. Quindi io dico Insigne. Vabbè, io spezzo una lancia a favore di El Shaarawy, perché è cresciuto molto, nella Roma ha ritrovato anche il gol. Questa è la partita in cui tutti devono fare il salto di qualità. Vedremo. E quindi se è l'occasione per dimostrarsi grandi. Assolutamente. Che lo faccia Insigne, che lo faccia il Shaarawy. Dicevo prima, che lo serve faccia l'Italia. De Sciglio. Certo, serve l'Italia migliore degli ultimi 4 anni, da quella notte di Varsavia in cui battemmo la Germania 2-0. L'Italia migliore da quella in poi, passando attraverso un mondiale che è andato malissimo. La partita secca è strana, non è per farci coraggio da soli. La partita secca è strana, nel senso, la partita secca ti può consentire di stare in partita fino all'ultimo, di allungarla ai rigori, di trovare magari il gol con una buona ripartenza. Insomma, noi abbiamo, certo, poi fai dei paragoni, pensi a Iniesta, pensi al nostro centrocampo e c'è un attimo già di giramento di testa, però fortunatamente non è una scienza esatta. Su El Shaarawy io credo che sia un po' un peccato, perché El Shaarawy secondo me sta bene, sta molto bene, l'ha dimostrato nella parte finale della stagione, è un po' indietro nelle gerarchie, anche l'altro giorno non mi è dispiaciuto come è entrato rispetto agli altri, però mi sembra sia nettamente indietro nelle gerarchie, mentre Insigne mi sembra veramente il 12° in questo momento. Anche io penso che possa essere cambiato davanti, non credo il tandem offensivo, ma credo la gerarchia del primo cambio, cioè soprattutto se le cose non dovessero andare bene, secondo me Insigne è il primo che al 60°, se siamo sotto di un gol, Insigne entra. Alessandro Alciato e Dario Ricci, grazie, ci sentiamo più tardi. Dario, che dici, De Luca? Grazie, sono d'accordo. Ciao, grazie mille. Vi ricordo, torno a ricordarvi, dalle 18 esatte, precise, inni nazionali compresi, seguiremo Italia-Spagna, tutti convocati fino alle 21. Speciale anche Pardo. Sì, a un certo punto mi collego. A un certo punto ti collegherà. Una convention. Nicola, sentiamo un paio di ascoltatori. Anzi, uno adesso e uno dopo la borsa. Nicola, buongiorno. Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione. Volevo dare il mio parere sulle percentuali dell'Italia stasera. Sì. Secondo me 45 Italia, 55 Spagna. Tuttavia la vedo dura per l'Italia, quasi spacciata a continuare poi la strada per l'europeo, visto poi i tre grossi ostacoli che possono essere Germania e Francia. Delle squalifiche e infortuni. Sì, uno per volta. Il problema degli infortuni reale che riguarda Candreva, che era uno dei giocatori più importanti. Che può solo migliorare, nel senso che nel caso potrebbe solo tornare. Per quanto riguarda le squalifiche, sicuramente c'è un problema, avendo noi 10 diffidati e tutta la difesa diffidata, però è un problema, lo ricordiamo, che varrebbe soltanto per il match dei quarti di finale con la Germania, perché poi dopo si azzerano dalle semifinali in poi. Quindi è chiaro che, insomma, sì, stasera, oltre a fare una grande partita e a cercare di vincerla, i tre della difesa dovrebbero essere bravi anche a non farsi ammonire. Questo è sicuramente un problema. Penso anche, però, un po' per la storia di questa squadra, un po' per il tipo di contesto, di congiuntura nella quale arriva questo europeo per noi, che secondo me un'impresa tira l'altra. Io sono abbastanza convinto di questo. Cioè, sarebbe brutto per la Germania trovarsi di fronte un'Italia a un'Italia che ha superato la Spagna, sarebbe bruttissimo per la Francia o per l'Inghilterra o per l'Islanda, chissà, trovarsi di fronte a un'Italia che ha battuto Spagna e Germania. Perché chiaramente questa squadra se tira fuori questa magia, poi può essere pre dura, ragazzi. Io sono sul 65-35, spero di sbagliare. Morris, invece, percentuale. Buongiorno, dica. Io volevo un po' comunicare le mie sensazioni di stomaco che sto vivendo in questo momento. Quali sono? Visto l'orario, orario e se devo ancora pranzare, purtroppo sento un gran brontolio allo stomaco. Questo ok. C'è pure chi lo sente dopo pranzo. Sono rilassato perché purtroppo arriva un po' presto questo incontro, sono l'ottavo, sono ancora molto forti, quindi dobbiamo essere rilassati. Percentuale? Percentuale 70-30. 70-30, quindi più pessimista rispetto a Pierluigi Pardo. Borsa, poi torniamo, 800-24-0024, numero verde. Forse siamo brutti, sporchi, non lo so, però diamo tutto e vediamo di poter fargli male. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia! Convocati. Bueno, no me lo creo. La verdad que tiene un buen equipo, él es un grandísimo entrenador. Por lo que he conocido de él, lo estudia mucho. Sabe siempre cómo sorprender al rival y nada, la verdad que seguro que tendrán en sus cabezas el pensamiento de que nos van a ganar, al igual que nosotros también estamos confiados de que vamos a pasar a cuartos. Domani si gioco, si il mister decide che devo giocare, sarà la partita più importante o una delle più importanti della mia carriera. È un piacere quando uno gioca con la difesa d'Italia nella sua squadra, però sarà duro giocare incontro. E alla fine questo è calcio e speriamo che la cosa va bene, però è solo calcio. Sì, vigilia spagnola, Fabregas e Morata, su cui Del Bosque punta moltissimo. Fabregas che fra l'altro parlava del suo futuro allenatore, no? A meno di sorprese, quindi che Antonio Conte. E, insomma, tu vedi la formazione della Spagna e ti metti anche un po' paura, no? Da Piqué a Sergio Ramos, da Fabregas a Silva, a Iniesta, a Morata. Insomma, la qualità è diversa, la qualità è diversa. Però, partita secca. Hanno sicuramente qualche punto debole, soprattutto dietro. Non sono la Spagna di 4 anni fa, e al di là del fatto che anche noi, secondo me, non siamo l'Italia di 4 anni fa, se devo essere sincero, noi abbiamo meno qualità, però abbiamo una compattezza. Ma ieri quante percentuali avresti dato al Cile contro l'Argentina? Meno di quelle che do oggi all'Italia. Sinceramente pensavo, quindi vuol dire che sono scarso nel fare i pronostici, quindi speriamo che funzioni. Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire una cosa, l'unica squadra che si poteva battere, per conto mio, era l'Ungheria, cambiando il portiere. L'Ungheria, se avete visto ieri contro il Belgio, ha perso 4-0, però ha fatto una partita al centrocampo, una delle migliori squadre per me che abbia avuto e che ha un centrocampo buono. Direi che l'unica squadra che ci poteva battere era l'Ungheria, cambiando il portiere, perché ha preso 4 mandoline che sono importanti. Però prima di prendere 4 mandoline ha fatto anche qualche parata il vecchio Kira lì. Non le piace la tuta grigia. No, direi che se mettevamo Buffon lì con la squadra d'Ungheria era una squadra che poteva combattere per prendere può essere, ma a me è piaciuto davanti il Belgio ieri sera con Hazard, che ha fatto una partita semplicemente impressionante. Quella squadra di talento ne ha quanto vuole e in ogni reparto, quindi mi ha impressionato la Spagna. L'Ungheria ha fatto la sua partita, è riuscita a rimanere in partita fino alla fine e poi sono stati 4, insomma, averne avuti di avversari così per l'Italia. Ma assolutamente, ma insomma, dai, il discorso sul tabellone l'abbiamo fatto 1000 volte, sì. Portogallo e Belgio, che sono due squadre che hanno... Il Belgio è iniziato male, poi si è subito ripresa, questo, però è iniziato veramente male. E il Portogallo ha stentato tantissimo, hanno in questo momento un'autostrada verso la semifinale, quindi una delle due probabilmente andrà in finale, ragazzi. Che devi fare? C'è poco da fare. Giulio, buongiorno. Eccolo, grande onore per me. Esagerato. No, per noi, ma... per noi. No, dica, allora, dica. Dica, mi sa di Crucianesco. No, allora, sensazioni positive, 2-1 per noi ai supplementari. Anche perché, cari miei, ora io dico, e voi dovete aiutarmi con la vostra statistica, per buttare fuori l'Italia da una gara secca ce ne vuole, ci vogliono rigori e golden goal e Moreno e quant'altro. A memoria mia, io mi ricordo Francia-Italia 2-0 mondiali dell'86. Dopodiché ci sono stati... No, è la verità. Beh, anche Spagna-Italia, anche Spagna-Italia. Sì, vabbè, però allora, quella lì è l'eccezione che conferma la regola, detto i nostri intervistati. Ma poi lì veramente ero presente in loco e devo dire che eravamo distrutti, perché questa cosa di far giocare la seconda semifinale il giovedì e la finale la domenica, terribile. Poi seconda semifinale giocata a Varsavia, aereo durante la notte per tornare a Cracovia, quindi venerdì mattina a Cracovia, venerdì defaticante, sabato partenza a Cracovia, Kiev, lì qualcuno criticò Prandelli, ma insomma sono dettagli, dopo sono tutti bravi. Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale in quella europea, non possiamo dimenticarlo, e secondo me disconoscerlo è veramente scorretto intellettualmente. Forse col senno di poi poteva, in caso di vittoria, fare il trasferimento della notte direttamente a Kiev, avrebbe guadagnato qualche ora di faticaccia. Sì. Vedo due Ricci in contemporanea stereo. Il nostro Dario, che ha raggiunto al Media Compound di Saint-Denis, Filippo Maria, buongiorno. È proprio così, insomma, due Ricci al prezzo di uno, insomma, offerta direi da irrinunciabile, soprattutto perché vicino a me c'è Filippo Maria. Filippo, guardiamo un attimo dentro lo spogliatoio della Spagna. Qua, insomma, ci immaginiamo un Del Bosque che mette occhio di drago, coda di ranocchia, sta preparando una pozione magica, oppure, per come tu l'hai visto e come lo conosci, lo hai visto comunque sereno delle sue certezze? No, sempre lo stesso, Del Bosque non cambia, Del Bosque è uno tranquillo, è la sua forza e che magari, se vogliamo anche... può essere la sua debolezza, no? Insomma, io l'ho visto un po' stanco in generale, no? L'ho scritto anche oggi, è anche stanco di certe critiche che gli arrivano da una parte molto precisa della stampa, diciamo, madrilena e magari anche madridista. Non cambia il suo discorso è il vecchio motto di John Cruyff: andate, divertitevi. E se la Spagna si diverte, per noi sono guai, noi dobbiamo rovinargli il pomeriggio, questa è la cosa. Senti, ma equilibrio interno allo spogliatoio, a partire da quel gesto dal dito di Piqué, che sicuramente questa maglia della Roca gli sta un po' stretta, cioè c'è ancora l'unità di intenti tra il gruppo catalano e il gruppo madridista, oppure? Beh, sì, perché il gruppo madridista è ridotto a un singolo elemento, c'è solo Sergio Ramos, quindi non c'è più la dualità. E Morata. Morata non è da considerare, Morata è, diciamo, un bambino, è arrivato da poco, non... c'è anche Lucas Vazquez, se vogliamo, però appunto non... c'è solo Ramos, sì, dito medio. Casillas e Naftalina. Sì, ormai poi comunque non è più madridista, insomma no, la dualità non c'è più, è una squadra molto catalana e forse per questo oggi giocano con la maglia bianca e perdono sempre, io l'ho scritto oggi. Tutta quest'anima catalana, giocare con la maglia bianca non va bene, quindi forse per questo anche perdono sempre con sta maglia. E no, detto questo, no, il dito medio un'assoluta sciocchezza, insomma non è stata strumentalizzata ad arte, per me non c'è niente. E anche se vogliamo anche le polemiche sul rigore, vuol dire Ramos è così, segna col cucchiaio, no, nella semifinale contro il Portogallo e sbaglia con la Croazia, prenderlo o lasciare, Ramos è così. Però no, lo spogliatoio va bene, non è quello il problema, secondo me. Di cosa ha paura la Spagna, Filippo? Di cosa può aver paura la Spagna? Del nostro spirito competitivo, del nostro saper competere, del nostro saper, come l'altro giorno diceva Xavi, dice ma voi, anche se non c'avete il pallone, non è un problema per voi, non è che dice noi ci mettiamo qua in ansia, no, bisogna giocare bene, se non abbiamo la palla non lo facciamo, dice voi state tranquillissimi. E quindi alla fine uno tranquillo finisce per agitare l'avversario. E così è, dice voi vi mettete lì nella vostra area, se non fate grandi azioni nessuno vi dice niente. Ed è così. Sì, magari poi qualcuno, se gli dici che riesce a giocare a calcio senza pallone, potrebbe anche offendersi. Noi no, insomma. No, esatto, è questo. Noi, la nostra partita è un'altra, siamo, no? C'erano i dati sul possesso, sui passaggi tra Italia e Spagna, erano bellissimi, insomma, no? Noi abbiamo più o meno la metà di, no, dei tocchi che hanno loro. E vabbè, ma non facciamo un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco che viene rispettato. La Spagna ha paura di questo. Non è che secondo me, per noi il vero problema è che non non ci sottovalutano per niente. Magari così, Pierluigi. Magari, senti, no, però posso tornare un attimo su quel dito lì, perché io ti dico la verità, premesso che non posso pensare che un giocatore smaliziato ed esperto come Piquet possa fare un gesto di quel tipo, anche perché se non volesse giocare con la Spagna lo direbbe, no, non è che devi fare il gesto, però è veramente strano quel gesto, cioè adesso sinceramente io non posso dimenticare quella frase di Piquet, quella frase di Piquet prima di una finale di Coppa del Re rivolta a non ricordo chi del Real Madrid, e adesso veniamo a prendervi la coppa del vostro re. Sì, vabbè, però questo è un altro discorso. Cioè, Piqué è uno che ha vinto, con la Roca, non è uno. Cioè, non è che siano successe delle cose nelle ultime ore tali da poter cambiare il clima politico al di là delle elezioni di ieri. Però che spiegazione hai? Perché veramente il gesto, io l'ho visto e rivista, è strano. No, se tu guardi il fermo immagine sì, ma se tu guardi tutta la sequenza no, lui si scrocchia le dita, se tu lo fai quel gesto che fa lui, il dito medio diciamo si protrae, insomma adesso veramente no, io lì non, non mette la maglia della Spagna al figlio per andare a giocare ma in campo. Ma certo, questo non c'è dubbio. Piqué è così, cioè, quella è veramente una sciocchezza che poi dopo e soprattutto è stata veramente artatamente utilizzata, come anche il discorso di Pedro, no? Pedro viene e fa casino, i primi a diciamo saltare su questa storia sono gli stessi che saltano sul dito medio di Piqué, cioè è palese questa, diciamo, questo cercare di comunque di seminare zizzane e gettare fango sulla nazionale, perché comunque la nazionale di Del Bosque, e Del Bosque c'ha i suoi problemi con Real Madrid e via dicendo, per cui no, io non lo vedo tanto, non puoi restare, è arrivato quasi a 100 partite Piqué, era più vero il bacio con Ibrahimovic, insomma. Esatto, sì. Grande Dario, sì. Allora ascoltate un attimo ragazzi, faccio sentire il traffico e poi vorrei chiedere un'ultima cosa a Filippo Maria Ricci che riguarda la notte, notte per noi, il dramma sportivo di Lionel Messi che perde di nuovo e dice addio alla nazionale argentina. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, terza finale consecutiva persa, due di Coppa America e una ai mondiali. La scimmia è diventata, si è mangiata, lo scimmione che portava sulla spalla si è mangiato Lionel Messi, che dopo la sconfitta di questa notte ha detto addio alla nazionale argentina. Ci ha sorpreso. Abbastanza. Sì, anche se io credo che tornerà indietro. Ma sì, perché insomma è ancora giovane. Credo che sia stato veramente uno sfogo dovuto essenzialmente alla rabbia del momento. Che ci mostra però, secondo me, in maniera molto chiara, plastica, direbbero quelli bravi, che oggettivamente la nazionale è un problema. Cioè c'è qualcosa di irrisolto nella carriera di questo calciatore straordinario. Sì. Perché altrimenti una reazione del genere, secondo me, per un altro giocatore così smaliziato, non te l'aspetteresti, no? Vuol dire che, al di là del fatto che comunque insomma non è piacevole ogni anno arrivare in finale, giocare contro il Cile e perdere rigori, è abbastanza una rottura di palle, lo capisco perfettamente. Però da qui a pronunciare le parole che ha pronunciato Messi a fine partita vuol dire evidentemente che lui si sente addosso tantissima pressione quando gioca in nazionale, e questa roba poi due volte ai rigori e la finale mondiali persa negli ultimi brandelli di partita, come vi ricordate. Filippo, ti aspettavi questa? Sì. Questa sconfitta penso non se l'aspettasse nessuno. No, perché l'Argentina è arrivata in carrozza verso la finale. E questa maledizione di Messi, invece, ha ragione Pierluigi, c'è qualcosa di irrisolto, forse di quasi di esoterico. Sì, sicuramente. E ricordiamo che è la terza finale anche di Coppa America, ne abbiamo già persa una con l'Uruguay, quindi sì. Diciamo siamo un bel triplete. 23 che anni che l'Argentina non vince. Esatto, insomma, non può essere, capito? Non può, nell'era Messi, l'Argentina 23 anni che non vince niente, non ci siamo. E questo è un problema che viene che ha 17 anni più o meno, non Messi ne ha 29, meno 17 fa 12 quando lui è andato in Catalogna, insomma, è risparcato a Barcellona, la sua vita è cambiata. Deve cambiare squadra Messi, ragazzi. Anche secondo me. Sì, anche secondo cioè, io dico che se lui vuole, previsto che può continuare a vincere, accumulare soldi, accumulare coppe, perché insomma e rimarrà come un grandissimo campione, ma se a lui veramente gli sta sulle scatole questo tipo di etichetta, di definizione, secondo me anche sbagliata e anche ingenerosa, no? Di uno che vince solo col Barcellona, la strada ci sarebbe, la strada è quella di andare a fare quello che ha fatto Cristiano Ronaldo. Beh, non capire, però, e poi è nominato Cristiano Ronaldo, è un altro che col Portogallo non ha mai combinato niente, cioè è riuscito a fare sì, però a Cristiano questa cosa non viene detta, un po' perché Cristiano non ha il paragone con Maradona, diciamo. Messi aspira, sì, no, Cristiano aspira, viene detta un po', un pochino sì, no, non così tanto, chiaro, non c'ha Maradona alle spalle, perché chi c'ha, Figo o Nuno Gomes, Eusebio, il problema non si pone, è chiaro che il problema di Messi si pone, perché Messi è genericamente riconosciuto come il miglior giocatore degli ultimi 10 anni, anche superiore a Cristiano Ronaldo, e il miglior giocatore di sempre che se la gioca con Maradona, questa è un po' la sintesi, sì, certo. Quindi cosa che Cristiano, io sono d'accordo con Pardo, dovrebbe cambiare squadra, la strada è quella, dovrebbe, può anche fregarsene, sta bene lì, non è che però lì, vince palloni d'oro, però sicuramente coppe titoli, però può rimanere irrisolto alla fine della carriera, diranno ah beh, ha giocato nella De Luca squadra, dice che potrebbe venire a Napoli per dimostrare che anche a Napoli può vincere come ha fatto questa è una bella idea, può essere un'idea, la giriamo della a Napoli per chiudere il cerchio come Maradona, esatto. Sarebbe bellissimo, insomma, non, magari adesso tra qualche cerchiamo anno cerchiamo pure un bisnonno italiano, perché magari cambiando maglia trova nuove motivazioni e a noi fa comodo, cioè insomma. Tu dici che gioca nell'attacco dell'Italia, non troviamo parte, il bisnonno italiano, non parte di, la pratica dietro Eder e Pellè, no, dici che gioca in fila. No, ma tu sei d'accordo, Filippo, sul fatto che cioè, una via potrebbe essere questa? Sì, però i problemi con la nazionale comunque secondo me resterebbero, cioè lì c'è tutta una nazione che gli sta addosso, voglio dire, Maradona era stato ingeneroso solo una settimana fa con lui, Maradona è uno che difende il suo regno, sì. Ha visto che questo lo poteva attaccare, se sta difendendo il suo regno, e l'ha difeso con successo, voglio dire, come Gentile con la sua maglia, ha strappato la maglia di Messi, quant'era, settimana, 10 giorni fa, dicendo che quel fuori onda, voglio dire, è esattamente il suo pensiero, cioè questo non c'ha personalità. Posso no? dire che non mi è, al di là del fatto che quello è un fuori onda e quindi va bene, fuori onda io sono dell'idea che non dovrebbero, sono come le conversazioni private, nel senso che ne hanno scritto tutti in questi anni. Lui lo pensa, ma certo che lo pensa, un conto è pensarlo e un conto è dirlo, nel momento nel quale lui lo dice pure, sì, infatti, lui lo dice pure, e ti dico la verità che in questo non mi piace molto Maradona, perché penso, sta difendendo come Gentile, perché penso che uno come lui che è inarrivabile per definizione dovrebbe fregarsene di questo, no, anzi dovrebbe da argentino essere molto felice, poco patriottico, ecco. Esatto, molto poco patriottico, Maradona, cioè lui alla fine non vuole che l'Argentina vinca con Messi, questo è il discorso. Non so se non, cioè, non vuole, comunque fa finta di niente, però nel profondo, a livello inconscio, secondo me, io tutti i grandi campioni difendono i propri record anche quando dicono che non è vero. Ciao Filippo, grazie. Ci sentiamo prossimamente. Vi ricordo lo speciale di stasera dalle 18 alle 21 per parlare insieme, per raccontarvi, per commentare ogni respiro d'Italia, Spagna. Ricci e Ricci, Ricci e più Ricci. Ricci più Ricci. Fabian Bergamo, buongiorno. Buongiorno, che tal? Che posto? Sì, argentino, Sì, sì. Capito sì. Subito. Che passa? Che capito passa? Subito più che dalla. No, dall'inflessione e dalla tristezza. Sì. Sono delle 2 del mattino sveglio e buona. Sono qua firme al lavoro, perché bisogna lavorare. Però dovrei dire una cosa, dopo che una squadra sono 11 giocatori, no? Certo. I Messi è uno, diciamo, non è uno in più, è la differenza. Però ragazzi, non si guai mi sbaglia quello ai 10-20 minuti, non mi ricordo bene quando, perché ero un po' dormito. Dopo Agüero in fretta mi sbaglia un gol, che lo posso. Allora basta, questo qua realmente non è che lo sto argomentando e dicendo che ha ragione. Quando dopo ho letto che lui se ne va della nazionale, veramente mi sono liberato, perché anche per lui come persona, lui non le ha fatto niente di male a nessuno, in meno al calcio, anzi dovremmo ringraziarle a lui. È vero. Allora io vorrei che lui vada via. Però nessuno metterà in dubbio, sì, perché ho capito che non ha vinto niente con la nazionale, sì, però rimanerà a questo punto che possiamo dire di Pelé. Qualcuno può mettere in dubbio Pelé? No, no, non ha vinto niente fuori d'Europa, niente, lui fuori del Santo, non ha vinto, ha vinto nazionale, vinto no, ha vinto con la nazionale, però ha passato la carriera nel Santos, sì, questo, allora questo dice, era una grande, ecco, però. non bisogna dimenticare però ha ragione, io ti dico la verità, lui diceva è uno degli 11, va bene, ma questa Argentina è una grande squadra, no, ma mi piace molto il punto di vista dell'ascoltatore, perché ci offre un approccio giustamente tenero e affettuoso con un giocatore che è un grande giocatore, che noi dovremmo prima di tutto ringraziare per quello che ci ha fatto vedere e che ci sta facendo vedere in questi anni. E invece questa cosa è vera, probabilmente lui da argentino la sente ancora più stretta, cioè questo continuo confronto con Maradona, il confronto con Cristiano Ronaldo, questa discussione sul fatto che fuori dal Barcellona non vince, insomma, premesso che i problemi nella vita sono altri, no? Sono quelli di chi non arriva a fine mese, ci mancherebbe, sì, o chi ha problemi, sì, seri. Però, insomma, voglio dire, per un grandissimo calciatore come questo, comunque il cumulo di tensioni e di pressioni accumulate è enorme. Quindi io capisco perfettamente, insomma, che chi in qualche modo gli vuole bene e si sente legato a lui possa considerare tutto questo come una liberazione. Io non credo, francamente, che Messi rinuncerà alla nazionale. Io non credo che smetterà. Anche perché io penso che voglia giocare almeno l'ultimo mondiale possibile ad altissimo livello per lui, 29 anni, quindi tra due anni ne avrà 31 e forse quella sarà l'ultima grande chance. Fatico a credere che l'Inghilterra, o meglio la Gran Bretagna, saluterà definitivamente l'Europa. Pensa come sto, fatico a credere quello, con tutto che c'è stato un chiaro pronunciamento su Messi. Penso proprio che invece non lascerà la nazionale. Abbiamo meno di un minuto per Francesco da Udine, poi GR, poi moto e poi altro. Dica, Francesco. Pronto? Eccoci qua. Eccoci, dica. Buongiorno. Niente, volevo parlare di due cose. Una di Messi, sì, nel senso che ieri sera si è vista tutta la differenza tra un giocatore che nel 1986 si è messo sulla schiena della squadra e effettivamente ieri sera quello che non è successo. E l'altra? E seconda cosa, mi dispiace, però ho paura che stasera prenderemo un'altra batosta tipo quella di 4 anni fa. Per me no. Ognuno però se la sente come ne ha voglia, insomma. E ognuno poi prende le sue scaramantiche i suoi scaramantici provvedimenti, vero De Luca? Che c'è? Che fai? Tieni un corno, tieni un bel corno. Ah, dobbiamo andare in faccia, perché adesso c'è il GR. Poi torniamo però, 800240024, 3 ore a Italia-Spagna, la grande partita. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play, play with the playmakers. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Bandiera rossa, bandiera rossa. Al 15° dei 26 giri, bandiera rossa in questo momento. Sì, era troppo. Che bellissimo, però che 10 anni di vita andati. Che abitudine che stiamo prendendo. Dovizioso, Petrucci, Rocci. Bisogna aspettare che devono spiova. Comunque aspettare un attimo. Però la gara, ti confermo che non è finita, Guido. È caduto Petrucci, attenzione. È caduto Petrucci. È caduto Danilo Petrucci. No, no, no. Attenzione, Dovizioso. No. Dovizioso in terra. Dovizioso rotola via. No, incredibile, anche Rossi è per terra. Alla 10 mi pare. No, sì. Incredibile, anche Valentino Rossi nella ghiaia. I tre migliori protagonisti della prima metà di gara, tutti e tre per terra. Jack Miller vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Marc Marquez, felice come una Pasqua perché ha portato a casa e ha messo in banca un risultato da paura. In ottica mondiale, bravissimo Scott Redding in terza posizione. Il campionato è molto difficile e questa era una pista, una gara dove bisognava recuperare dei punti, soprattutto su Lorenzo che è stato in difficoltà nel weekend, e magari cercare anche di recuperarli su Marquez. Invece alla fine ho sbagliato e li ho persi, però dai, cerchiamo di fare delle belle gare, poi vediamo. E ci ha raggiunti Roberto Ungaro qui con Pierluigi Pardo per parlare di questa sfigatissima gara. Come va? Come va? La gara che non volevamo vedere, e invece ha vinto il dio meteo e ci ha regalato questo. Maledetto Landa, ti puoi aspettare che piova, che arrivino quelle nuvole? Sai perché? Perché si è corso di domenica. Bravo, per la prima volta nella storia. L'anno scorso ha vinto Valentino la grande, no? Sì, ma di con sabato. Quell'ultima curva, ti ricordi Luigi? Sì, che c'è stata la spallata e ha tagliato. Sì, mi ricordo, avevo ed è stato abbastanza, bello. Esatto, perché quest'anno nelle prove Marquez ha provato col compagno Pedrosa a rifare la stessa identica cosa. C'ha che provo, visto che è legalizzato. Questa cosa ha fatto molto ridere. Comunque, se ci fosse stato il sole, io, guarda, avrei scommesso. Avremmo visto un ultimo giro così, ancora con Marquez e Valentino, solo che adesso erano preparati tutti e due per fare quel taglio, capisci? Quindi, Sì. Sulla caduta di Valentino cosa possiamo dire? Lui stesso ha ammesso di aver commesso un errore, ma Carlo, ci sta. È la prima volta che sento dire a Vale sono stato un somaro. Sull'acqua è così, comunque sei su un filo, è un rasoio e sbagliare un attimo. Lui ha montato una gomma giustamente più morbida nella seconda gara e gli dava una spinta maggiore, è arrivato con 5 km orari in più, ha frenato nello stesso punto con la stessa intensità ed è andato in terra. Però ragazzi, sono andati in terra tutti, vizioso. Quello che si evince dalla telecronaca è che Petrucci è andato in terra. No, Petrucci si è rotta la moto. Quindi io rimarcherei questa cosa, perché lui è stato bravissimo, era protagonista, poteva vincere, poi è stata interrotta la gara, è ripartito ancora protagonista nella seconda frazione e lì la moto purtroppo si è ammutolita, altrimenti poteva essere il suo jolly questo. Senti, prima il professor Genta mi ha ricordato, anzi mi ha proprio detto che erano 62 Gran Premi che non vinceva uno dei magnifici quattro. Sì. Ma chi è sto Miller? Perché io Miller, ho pensato a uno yogurt, sinceramente. Ho pensato a uno yogurt, invece uno è bravo, no? Ha fatto il doppio salto, sì. È un prodigio. 3 anni fa, australiano, aggressivo, doveva vincere Moto3, poi per un pelo non l'ha vinta, ma era così potente, così forte, Honda ha creduto in lui, ha fatto il passaggio diretto, cioè non è passato per la Moto2, è andato diretto in MotoGP, come se una squadra della Serie C andasse direttamente in Serie A. Tante cadute, si è fatto male, sbagliava, criticato sia per il gesto di snobbare la Moto2 e per la sua irruenza. Con la moto da cross l'anno scorso in allenamento si è rotto molto tibia perone, ha faticato, è arrivato in ritardo la stagione, e quest'anno sull'acqua ha dimostrato, perché passare così Marquez, prendere e andare via, vuol dire che comunque il talento c'è. È bello vedere che vince una moto non ufficiale e un pilota sconosciuto tra virgolette, perché sennò il monopolio è sempre degli stessi fantastici 4-3 spagnoli e un taglia Spagna, esatto. ogni domenica, ogni maledetta domenica, anche se ieri moto. Però in Moto3 l'Italia l'abbia fatta suonare l'inno, sì, perché lì no, ma siccome un paio d'anni ancora e vedrete che il rimpiazzo italiano sarà effettuato, in MotoGP torneremo a divertirci. Oggi siamo appesi a lui, al re, e questa volta ha sbagliato. 800 24 00 24, se volete intervenire. Stiamo vedendo però anche un Marquez diverso in questa stagione, voglio farvelo sentire. Marc Marquez dopo la gara: oggi era una gara che si poteva guadagnare tanto o perdere tanti punti, no? Valentino era più veloce, era fortissimo, ma quando ho visto che è accaduto, ho visto già che era dietro, dico dai, vai avanti, vinci la gara, che per me sono 20 punti a posto. Questa è la differenza, maturo, lui maturo. Ha visto, allora il Marquez dell'anno scorso gli si sarebbe chiusa la vena e vedendo Miller passarlo non avrebbe fatto chissà che cosa, rischiando molto, si è accontentato dei 20 punti che ai fini del campionato gli danno la possibilità di allungare, adesso è a 42, quindi non è chiuso del tutto, Carlo. Però grande maturità ieri di Marquez. Sì. Ma senti, invece anche sentivo ieri Capuano, insomma è chiaro che noi dai grandi campioni come Valentino ci aspettiamo un qualcosa che è in linea con la perfezione, no? Quindi anche un errore in condizioni oggettivamente complicate come quelle di ieri lo consideriamo come una sbavatura pesante nella carriera di uno così bravo, ma che condizioni c'erano? Cioè, sei innocentista o colpevolista? Lui ha detto che è un somaro. No, sono somaro. Innocentista. Sei innocentista. Sì, la gara è stata interrotta perché c'era troppo aquaplaning e non c'era visibilità, quindi giusto interromperla perché è troppo pericolosa. Certo. Purtroppo non avevano raggiunto il chilometraggio necessario per decretarla ufficiale. Per chiuderla, certo. Mancavano ancora due giri. Sono ripartiti e lì si sono rimescolate le carte. Cambiare la gomma dietro ha un po' cambiato le carte in tavola, ma ci sta questo. Non è un errore grossolano, anche Dovizioso l'ha fatto, e Dovizioso è preciso. preciso, un ingegnere millimetrico, quanti sono caduti ieri, ripeto, l'unico che non ha raccolto veramente è Petrucci, perché è stato bravo, non ha fatto errore, lui è stato tradito dalla moto, secondo me comunque ci sta. Che avrà detto Petrucci in Ternano quando la moto gli si è... Rimortacci manco stavolta. Grande, Petrucci, grandissimo e io spero veramente tanto in lui, abbiamo bisogno del rimpiazzo. Beh, talento, ma, sì, ma poi merita, un ragazzo che viene dal basso, simpaticissimo, ma di giovani, scusate ma mi gaso da profano, sto transagonistica perché non voglio pensare alla partita, quindi cerco di parlare d'altro, ma c'è qualcuno che si può avvicinare, non dico a Valentino, ma insomma alla saga degli ultimi vent'anni, Biagi, Capirossi, cioè chi è il più talentuoso fra i giovani? Adesso abbiamo Bulega, giovanissimo, rookie quest'anno, molto veloce, però c'è un rimpiazzo notevole perché Pecco Bagnaia che ha vinto ieri, poi abbiamo Bastianini, sono tanti, però... Fenati fanno... non lo vedi? Fenati secondo me non è di quella pasta, eh. È possibile che venga fuori di più nella cilindrata maggiore perché Fenati è un pilota da Moto2, gli altri devono ancora dimostrare, però il vivaio, il rimpiazzo c'è grazie anche a Valentino, la sua scuola, ma non solo per quello, e quindi però quella stella che brilla nel cielo sinceramente, cioè il Valentino, il Biagi, sì, non c'è ancora, forse l'unico potrebbe essere Buliga, stiamo a vedere. Il Cairoli, abbiamo passato la mattinata con Cairoli che ha presentato che la perde nella... cioè... che è un po' il Valentino al motocross, no? Sì. 8 titoli mondiali. 8 titoli, lui è un grandissimo, poi se pensiamo da dove viene, dalla Sicilia, immaginate cosa vuol dire conquistare il mondo venendo da un'isola, anche solo per vincere un italiano, pensa alle trasferte, i traghetti, le cose che devi fare. Quello è la tenacia, comunque tanti anni è ancora lì e vedremo a Nazioni, purtroppo c'è solo lui, è l'unica nostra stella che brilla, perché sapete che a Nazioni la squadra è fatta di 3 piloti, ma lui brilla tanto, ma gli altri due sinceramente nel cross si è messi male, molto più che nella MotoGP. Vorrei che commentassi Roberto questo messaggio: Rossi e Lorenzo con la moto migliore stanno regalando il titolo a Marquez che sbaglia meno dei due Yamaha. E l'abbiamo detto, è maturato, è cresciuto tanto, poi la Honda, come va la Honda? C'è un fondo di verità però. Sì, sì, come va la Honda? Dobbiamo vedere cosa fanno i Petrucci, i Cracciolo, quelle Honda lì. Il risultato di Marquez è farina del suo sacco che è enorme. Ci sta mettendo una grande pezza e soprattutto tanta testa. Anche chi scrive: quest'anno il campionato GP se lo porta a casa Marquez al 100%, vorrei abbassare questa percentuale. No, 100% ancora no, lasciamo un 10% di speranza. Quello che mi fa specie, ragazzi, non so se anche voi così, Lorenzo, ragazzi, sembrava un cadetto, è uscito di testa, non te lo aspetti da un pilota del genere. Però Lorenzo non è la prima volta, non è la prima volta che fa così. Marquez sbaglia di irruenza, posso, però Lorenzo posso fare viene buio. Da profano, può essere che Lorenzo sia un po' scarico dopo l'anno scorso? No, non è scarico, lui secondo me la firma con Ducati può segnare una linea di confine tra un prima e dopo di questa stagione per lui, anche perché dovete sapere che la sua squadra non lo seguirà, nessuno lo seguirà se non il suo meccanico che lo segue dall'inizio, da quando lui correva il 125, quindi l'anno prossimo moto nuova che all'inizio della stagione va fortissimo, ma adesso Ducati non è così competitiva, quindi lui potrebbe anche farsi delle domande e non ha dietro la sua squadra, immaginate cosa vuol dire, poi Ducati lo metterà nelle condizioni di, ma è un grande cambiamento, è una scommessa perché lui era stufo di stare lì in quel pollaio dove nonostante tutto il gallo che parla di più e fa parlare di più è Valentino. Giriamo queste considerazioni a Giacomo Agostini e Roberto Ugano. Giacomo, ciao. Eccomi, ciao. Ciao a tutti. Come va? Insomma, andiamo avanti. Hai sentito cosa diceva Roberto Ungaro a proposito di Lorenzo? Ho sentito dei rumori, ma non sono riuscito a capire cosa stava dicendo. Ripeti in due parole. No, dicevo, si accusa Valentino perché ha fatto questo grosso errore. Comunque sull'acqua ci sta in quelle condizioni. Si parlava che il campionato è finito. Secondo me è finito. No, una speranza lasciamola ancora aperta. Quanto è grande l'errore di ieri? Ma adesso c'è questo che sull'acqua purtroppo non sai mai quando puoi cadere, questa è la grossa difficoltà che c'è, quindi tu magari giri tutti i giri allo stesso tempo, lo stesso cosa, poi c'è il giro che giri uguale però ti trovi per terra, purtroppo è così, quindi non dobbiamo dare la colpa né a Valentino né ad altri, sul bagnato è così, ecco, cioè, la sensibilità è molto ridotta e quindi non riesci a capire quando la moto va via di in un tratto, in un colpo va via e non sai nemmeno tu il perché. È così. Poi non direi di campionato già finito, perché noi siamo abituati ad andare dalle stalle alle stelle e dalle stelle alle stalle. Cioè, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora circa 250 punti ancora, 250. quindi direi proprio che non escludo che Valentino possa rimontare. Certo, diventa più difficile ogni volta che perdi punti, è logico che diventa più difficile, però non metto già la croce, ecco. Giacomo, lo dicono in tanti, ma noi vogliamo dare una risposta certa. Quello di quest'anno è il miglior Valentino di sempre o l'anno scorso ci ha lasciato questa sua... Valentino è sempre andato forte, quindi certo, però... ha avuto un momento difficile quando è andato alla Ducati, si era demoralizzato e quindi per me non era più lui, però ha trovato la moto giusta, è tornato alla Yamaha, è tornato in questa grande famiglia, ha trovato serenità, forza e voglia di vincere, e è ritornato quello che è sempre stato, insomma, che non è che adesso Valentino quando vinceva il campionato del mondo non era bravo, insomma, è bravo come è bravo adesso. Quest'anno poi hanno anche una bella moto, perché la Yamaha credo che sia la moto più appunto di tutte, più preparata di tutte, e lui sta guidando molto bene, e anche questo è una cosa che lo carica, capito? Avere una moto che lui se la sente è una cosa importante, anche questa. Giacomo, per chiudere, stavamo parlando anche di Lorenzo, che invece con la moto più competitiva sta facendo una stagione sottotono, sottotraccia, weekend pessimo per lui. Purtroppo sì, lui sul bagnato si vede che la sua sensibilità è diversa, sul bagnato lui non riesce ad andare forte. Cioè lui sente, perché lui dice sì, la moto va via, ma io credo che lui senta questo, però anche gli altri sentono questo, però gli altri probabilmente riescono a sopperire questo, invece lui non riesce. Giacomo ha detto che vuole Max Biaggi al suo fianco, come Luca Cadalora al fianco di Vale. Fa bene secondo te a volerlo, a chiederlo a Ducati a tutti i costi di averlo al suo fianco? Non lo so, io credo che la cosa importante, oddio, se c'è una persona che ti, ma non è che allora tutti, cioè, certo, allora uno prende per dire Agostini e dice adesso vinco il campionato del mondo, ho preso Agostini, ma assolutamente no. Giacomo, poi puoi aiutare, puoi dare un consiglio, ma che consigli vuoi dare a un Valentino, certo, o ad altri, cioè che consigli vuoi dare? Ma tu puoi magari dire guarda che gli altri fanno così e tu fai cos'ha, perché ad esempio io credo la mia piccola esperienza, che Lorenzo probabilmente sul bagnato c'è qualcosa, io credo che sia il perché lui ha una traiettoria molto più lunga e più larga, e quindi deve stare molto più tempo piegato, e piegati sul bagnato più. Probabilmente è negativa la cosa. Vero, questa è una cosa tecnica. Curiosità, ma ai tuoi tempi c'era Luccio della situazione, tu non ce l'avevi, vero Giacomo? Non esisteva Luccio, quello che è Uccio per Valentino, sai che i piloti sono tutti anni. Ma no, ma anch'io tempi... avevo i miei, avevo questo mio amico che lo chiamavamo il capo, Giacomo, eccetera, ma sì, erano quelli che ti facevano sentire in famiglia, cioè ti sentivi con amici, eccetera, che ti dava questa... Di testa. Però non è che mi facessero andare più forte o meno forte, però l'importante, no, certo, l'importante è avere attorno a te gente che gli vuoi bene, che ti vuol bene, e allora tu ti senti diciamo più tranquillo, ti senti protetto, ti senti a casa, ti senti con gli amici, questa è una cosa che senz'altro fa bene. Beh, che è una caratteristica di tutti gli sport motoristici, certo, credo. Magari Formula 1 un po' meno, ma insomma, mi sembra, certo, che tutto il mondo dei motori è, ovvio, è veramente... Sì, non è che arriva uno e dice beh, adesso perché ho preso Agostini adesso io vinco che batte il mondo. No, certo. Per osmosi, Giacomo, ma sai, per Giacomo, osmosi. Io sono abituato al calcio, dove comunque insomma, giustamente i ritiri sono blindati, le squadre viaggiano protette, insomma, all'interno del mondo delle moto c'è molta più artigianalità, c'è molto più rapporto umano, credo. Però sì, no? Sono superstiziosi i piloti, è pazzesco, e quindi vogliono anche questa persona che difenda la loro privacy, certo, perché certo, vogliono capita questo... a molti sportivi. Io ringrazio Giacomo Agostini, ringrazio Roberto Ungaro. Ciao Giacomo. Ci troviamo ovviamente tra due settimane Sachsenring, Roberto Ungaro. E così sia. Torniamo sulla per chiudere sulla Coppa America, su quello che è successo stanotte. Cerca il traversone, buono Götze! Götze! Germania in vantaggio all'ottavo! Proprio il nuovo entrato Mario Götze rompe l'equilibrio come Iniesta 4 anni fa! Ha fatto un gol straordinario, fa e il pipa. Ora arriva il travesaño. Ora arriva il travesaño. E porta il Cile in paradiso il Gato Silva. Spiazza Romero. Ancora una volta i rigori. Bravo l'eroe. E il Cile porta a casa la Coppa America. Back to back, come dicono da queste parti. Sempre ai rigori. Sempre in paradiso. È sempre il Cile che vince. E ancora una volta per l'Argentina. Sono solo lacrime calcistiche. Incredibile finale. Incredibile emozioni. Incredibile finale. Incredibile emozioni. Che città si terminò per la mia selezione. Ya, como dije recién, son cuatro finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. E torniamo lì, da dove siamo partiti, sai Pierluigi, c'era Simone Sandri al MetLife Stadium del New Jersey, yes. a vedere questo dramma sportivo. At the MetLife. MetLife Stadium. Ciao Simone. How's it going, Simone? Buon pomeriggio. Ciao, le facce degli argentini dopo questa debacle, non solo quelle sul campo ma anche quelle sugli spalti, immagino. Sì, veramente una, usiamo spesso la frase di tragedia sportiva, se ce n'è una era assolutamente questa. Io ero nella mix zone, veramente una sorta di funerale sportivo, perché l'idea che si potesse perdere un'altra partita così, in questo modo, poi per come si è incanalata con un'espulsione dopo 20 minuti, era veramente un po' fuori dagli schemi. L'Argentina aveva giocato una Coppa America straordinaria ed è forse questa una delle Argentine più forti sempre anche, ed è riuscita a buttare via una finale che sembrava già destinata, sembrava già la grande rivincita finalmente, la grande rivincita di Messi negli Stati Uniti, nel posto dove comunque la nazione che l'ha imparato a conoscere, che lo sta, che nel quale lui ha fatto anche parecchia pubblicità negli ultimi mesi, sembrava proprio tutto il destino, sembrava proprio quello di Messi che alza questa coppa al cielo di New York, invece non solo l'ha alzata il Cile, ma Messi è salito sul banco degli imputati per il rigore sbagliato, comunque per il fatto che adesso si deve portare ancora una volta a casa questa etichetta di un giocatore come diceva vice nazionale. Sì, e vedremo se ci ripenserà sul ritiro, ma anche Higuain, Pierluigi, dopo questa stagione pazzesca non riesce ad alzare nulla. Tutta la pressione è su Messi, però la verità è che l'Argentina adesso ha una abnorme quantità di finali perse, e quindi quando c'è un'abnorme quantità di finali perse c'è la sfiga da un lato, cioè ci può essere la casualità sicuramente, perché poi insomma le partite secche possono essere decise anche dagli episodi, però insomma, visto che la serie comincia a essere abbastanza significativa, ci sono sicuramente dei limiti di personalità di questa squadra, che non sono solo di Messi. Insomma, Argentina-Germania, prima abbiamo sentito Caressa, il gol di Götze, è una partita nella quale Higuain ha una palla gol a porta vuota incredibile nel primo tempo. Non era questo Higuain, però. No, non era questo Higuain, però dirti, se Higuain segna lì, probabilmente parliamo di una storia diversa. Quindi Messi ha sicuramente le sue responsabilità, perché grandissime partite in circostanze importanti, clamorose, non le ha mai fatte con l'Argentina. Questo è un dato oggettivo. Però anche i suoi compagni di squadra, che pure sono bravissimi, perché insomma ce ne dessero uno a caso, anche di quelli che non usano, anche di un Dybala qualsiasi, penso che faremmo bingo. E quindi ha un grandissimo movimento calcistico, però poi nelle grandi occasioni si perde. Però questa squadra sta sul podio del mondo ideale, no? Per me è la squadra più forte del mondo. O comunque insomma se la gioca con la Germania, se la gioca con le grandi europee. Io penso che in generale le squadre europee negli ultimi anni siano superiori alle squadre sudamericane, però l'Argentina è per distacco la squadra più forte che c'è in Sud America come qualità complessiva. Certamente. Salvo che poi ogni anno arriva in finale e perde col Cile, brutti, sporchi, cattivi cileni, siccome il risultato poi alla fine giustamente fa opinione, ci mancherebbe altro, perché l'unica cosa che conta alla fine è merito al Cile. Simone Sandri, un'ultima cosa, come è stata vissuta questa Coppa America negli Stati Uniti complessivamente? Con un grandissimo successo. È iniziata un po' zoppicando, perché se pensiamo alle polemiche, ovviamente questa Coppa America è stata quello che un po' ha dato là all'indagine dell'FBI sulla FIFA, che poi ovviamente ha scoperchiato il pentolone, ma è iniziata un po' così zoppicante, soprattutto con una prestazione un po' degli Stati Uniti contro la Colombia, così così, ed è andato in crescendo, è veramente stato un grande successo, 46.000 spettatori di media, che è quasi il doppio dell'edizione precedente, quella del Cile, numeri sicuramente di tutto rispetto, anche se hai visto anche un bel calcio, la squadra di casa che ha fatto abbastanza bene, a parte questa finale casa dell'Argentina, per cui sicuramente dal punto di vista organizzativo non si può essere considerato un successo, e gli Stati Uniti rimangono alla porta, non solo per il mondiale del 2026, ma se ci fosse un problema col Qatar, se la FIFA decidesse di togliere il mondiale al Qatar, gli Stati Uniti sarebbero sicuramente pronti a prendere il testimone. Grazie Simone, grazie Simone Alessandri da New York. Pierluigi, adesso stiamo facendo di tutto per parlare, non pensare, però adesso ci siamo, dobbiamo cominciare la partita. Come vivremo le prossime, cosa facciamo le prossime ore? Come inganniamo l'attesa? Ma io devo andare a vestirmi, come, insomma, devo cambiare, mi devo mettere bello sopra le cose. Ci vorrebbe forse per i mondiali del 2026, ecco, potrei pensare di diventare bello con un apposito programma di dimagrimento. No, a parte tutto, ragazzi, ci sentiamo alle 6. Io penso che sia dura, durissima, però insomma è bello esserci. Però è bello, prima esserci, di tutto è bello vivere, esserci. Bello vivere queste partite, dai. Prima di tutto è bello esserci. Peccato bellissimo che arrivi con la partita così, arrivi così presto, perché insomma l'ottavo di finale, poi quello che mi ha colpito di più, che diceva Conte ieri, è esattamente quello che penso da tifosi proviamo tutti noi, no? Non vogliamo tornare a casa, cioè vogliamo continuare, ci sono ancora 2 settimane di europeo davanti, vogliamo continuare a vivere da protagonisti, poi insomma a vincere è soltanto una, ma vogliamo andare avanti, solo che abbiamo forse l'avversario più forte di tutte, e ci serve la partita perfetta, e la faremo, basta, e la faremo, basta pessimismo. Benissimo, ci sentiamo alle 6, vi ricordo, speciale dalle 18 alle 21 per Italia Spagna, vi aspetto anche al telefono, telefoni sempre aperti. Vabbè. Grazie, bellissimo Giorgio De Luca. Spettacolo di sport. Bravi. Ciao.